Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa lega i makers e il cibo della tradizione, l'autoproduzione e le politiche partecipate, la cucina antispreco e la mobilità alternativa, l'economia carceraria e l'innovazione dal basso? Un evento che da 11 anni ispira le scelte più giuste in tema di consumo critico e stili di vita sostenibili. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. È sbarcato in Italia un nuovo canale dedicato al lifestyle. Aumentano in TV gli spazi dedicati a cibo, design, home decor e viaggi. Nuova miniera d'oro per i format di intrattenimento. Dal mondo food, lo sappiamo, passa ormai tutto quanto fa tendenza. Se prima erano gli chef stellati ad andare nei musei, ora sono le opere d'arte ad andare nei ristoranti. Questo è il tema del focus sui trend della settimana. In chiusura, come sempre, il nostro Italian Factor ad accelerare l'eccellenza italiana. Questa volta è l'empatia. Facciamo ad un fenomeno virale mondiale e partecipato per parlare di Fa la cosa giusta, la fiera diventata l'evento simbolo del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Giunta quest'anno alla sua 11ª edizione, si è aperta ieri, si chiuderà domani a Fiera Milano City. Un appuntamento all'insegna delle nuove abitudini di consumo e di vita che stanno tracciando il cambiamento. Abitudini più giuste per l'uomo, l'ambiente e per le nostre tasche. 12 le sezioni tematiche, dall'alimentazione bio alla moda etica, passando per mobilità sostenibile, artigianato digitale, autoproduzione, economia carceraria, riciclo, riuso, sharing economy. Partiamo dall'area Green Makers con il responsabile Christian Trabucco. Sono realtà che abbiamo definito come innovatori sostenibili. Quindi la parola d'ordine è l'innovazione dal basso, artigiani, smanettoni, makers che tramite i programmi open source e la loro arte del fare, del creare, appunto creano dei prototipi, dei progetti utili, diciamo, alla vita delle persone e in un'ottica sempre sostenibile. Quindi stampanti 3D, associazioni che propongono laboratori sul fare, sempre in ottica, diciamo, 3D taglio laser. E accanto a questo abbiamo una serie di servizi e di prototipi molto connotati per esempio sulla disabilità. Abbiamo questa realtà che porta un guanto che permette alle persone sordocieche di comunicare con uno smartphone, quindi attraverso l'alfabeto Malossi, associazioni che promuovono il turismo accessibile e dall'altro lato startup che si occupano di marketplace web, soprattutto per aumentare il baratto, i beni destinati al riuso. Quindi una serie di realtà molto diverse tra di loro che hanno in comune il fatto di essere innovatori sostenibili. Un movimento nuovo dei Green Makers fa sì che questi innovatori, o dal lato, diciamo così, del benessere del cittadino, quindi rispettando le fasce deboli, un'etica di lavoro, o dal lato, diciamo, più dell'ecologia, quindi utilizzando materiali di riuso, utilizzando materiali biologici o non inquinanti, possano dare un aiuto alla quotidianità delle persone. Uno dei temi principali della fiera di quest'anno è il cibo, la cucina antispreco in particolare. In scena c'è lo chef Giorgio Cabella che prepara la cena, pensate, utilizzando gli scarti degli show cooking del mattino. Gli abbiamo chiesto quali sono le strategie antispreco che può mettere in atto il consumatore. Allora, tanto è l'informazione che deve avere, che deve andarsi a cercare ogni singola persona, perché ogni volta che si compra un cellulare nuovo le persone vanno su blog, si informano di quello che succede, invece non avviene questo per gli alimenti, cosa che trovo piuttosto grave e dannosa per la salute, per cui partendo da quello, informarsi poi su ogni singolo alimento e sul suo utilizzo, nel senso che se compro un cavolfiore, compro la cipolla, io devo comunque utilizzare tutta la parte dell'ingrediente. A fare la cosa giusta, per esempio, il risotto che faccio è un risotto fatto con la cipolla, semplicissimo, e utilizzando la buccia per fare il brodo, recuperando i sali minerali e la colorazione. E così anche per fare, per esempio, il cavolfiore, utilizzare la parte fiorita per fare alcuni tipi di preparazione e utilizzare le foglie e il gambo per farne altre, per cui dell'intero elemento utilizzare tutto. E questo vale per i pesci, vale per la carne. Altra cosa sono le patate, per esempio, che possono essere utilizzate in qualsiasi modo, utilizzare anche la buccia. Se no facciamo una patata bollita che rimane morbida, o un purè, la buccia potrebbe essere utilizzata per dare la parte croccante al piatto, per cui o in forno facendola tostare, o se no in padella con un po' d'olio fritta, come si fa con le chips, creando appunto questa parte croccante molto molto saporita, perché il vero sapore poi della patata ce l'ha la buccia. Quanti consigli antispreco e ricette anche ci possono arrivare dalla tradizione? La tradizione ci può insegnare tantissimo, poi ovviamente con le nuove tecniche che offre la cucina moderna si può utilizzare maggiormente questo concetto dell'antispreco, e questa crisi, secondo me, portandoci un po' indietro, farà rinascere comunque questa cosa che sembra un po' una moda adesso, ma secondo me invece è essenziale per la salute, il portafoglio e il gusto, ovviamente. Ha molto a che fare col gusto anche, quindi diciamolo. Sì, ha a che fare essenzialmente col gusto. Secondo me la parte economica viene dopo, nel senso che comunque quando si fa una ricetta e si utilizza interamente un alimento, si parte comunque dal gusto. La parte economica è importante, anche se a questo punto la vedo leggermente secondaria, se non pari, perché ci si può comunque risparmiare notevolmente. Un esempio, il pesce va utilizzato tutto, ovviamente consiglio pesce di stagione come la verdura, per cui con la lisca, il classico fumetto, poi ci sono delle tecniche per lavorarlo, ma è lì che si trova il gusto del pesce, perché il filetto in sé, poi, voglio dire, se non ci si mette un po' di sale, un po' di, non sa, di un granché. La nostra personale selezione si chiude con la Scuola delle Buone Pratiche, l'iniziativa lanciata da Terre di Mezzo e Lega Autonomia, un'iniziativa che mette a frutto la collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini attivi. Un esempio, il manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo. Piero Magri. La Scuola delle Buone Pratiche è una scuola dove degli amministratori, sindaci, assessori, consiglieri, anche funzionari che hanno realizzato delle pratiche virtuose nel loro amministrare, vengono per andare a raccontarle, a narrarle, a insegnarle ad altri affinché questi poi le possano replicare nel loro territorio. Poi vuole essere anche un accompagnare appunto questi amministratori nel pensare a strade nuove, nell'andare a amministrare appunto il proprio comune, il proprio territorio. Citiamo una delle vostre campagne simbolo, che è quella contro il gioco d'azzardo. 2 anni fa abbiamo fatto con alcuni comuni un percorso su legalità e pubblica amministrazione, e una delle prime richieste venute da tutti i sindaci è stata quella di fare qualcosa per la regolamentazione del gioco d'azzardo, perché i sindaci non hanno nessun potere su questo tema qua, l'unica cosa che hanno è quella di raccogliere i danni che il gioco d'azzardo produce, perché le famiglie non hanno più soldi per pagare le messe scolastiche, pagare le bollette, la luce, il gas, eccetera. Da lì abbiamo dato vita a gennaio del 2013 a un manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, al quale hanno aderito quasi 550 comuni, grossi, piccoli, da tutta Italia. Da lì è venuto fuori l'anno scorso sempre la richiesta di dire però vogliamo fare una legge. Abbiamo quasi raggiunto le 50.000 firme necessarie per portare poi la legge in Parlamento, dobbiamo prima portarla in Corte di Cassazione e poi presentarla in Parlamento, e domani appunto qui in fiera ci saranno questi sindaci che vengono per raccontare come hanno fatto, innanzitutto raccogliere queste firme, poi per disegnare assieme quali sono anche le prospettive future a questo riguardo. Fine Living è un canale per chi ama il buon vivere. Trasformare le case è la mia droga. Okay. Vi mostrerò alcune cose favolose che creeremo per voi. Voglio darti questa stanza al prezzo che ti puoi permettere. Canale 49 del Digitale Terrestre è sbarcato in Italia da qualche giorno, Fine Living, nuovo canale interamente dedicato al lifestyle che fa capo a Scripps Networks International, produttore e broadcaster mondiale di programmi TV sul cibo, la casa, il design e i viaggi. Il direttore Andrea Paoletti. Io sono convinto che ci sia un gusto internazionale e ci sia anche un modo di contribuire contenuti internazionali che al momento sul mondo televisivo italiano non c'era, che noi con Scripps invece portiamo, e sto riscontrando un forte interesse, una forte curiosità per tutto quello che è internazionale, americano, anche la cucina. C'è interesse, c'è i cupcake, fino a 2 anni fa nessuno in Italia li conosceva, adesso invece tutti impastiti. Gli hamburger a Milano, ci sono 3-4 locali ormai che fanno hamburger d'autore, hamburger speciali, quindi sicuramente non c'è più lo snobismo che c'era una volta nei confronti degli Stati Uniti e in generale di quello che viene dall'estero. Moda, food, design sono valori molto connessi al consumatore italiano, quindi andate incontro ad una sensibilità evoluta in questo senso. Sì, ecco. Sì, diciamo, noi cerchiamo di fare un canale che punta a realizzare un mix di programmazione che fa da un lato sognare, ma dall'altro lato anche sia concreto, sia raggiungibile per il pubblico italiano. Per citarvi uno show che si chiama Sabrina Design Accessibili, è uno show di makeover, di trasformazione case, dove si vede che con due cifre completamente opposte, diciamo $5,000 o $20,000, si possono realizzare design praticamente indistinguibili. Questo perché il nostro vuole essere un canale che appunto fa sognare con ville incredibili a Los Angeles, appartamenti vista Central Park a New York, posti fantastici, ma anche la realtà della donna normale, della donna che lavora, che ha figli, che si ritaglia, che ne so, 20 minuti, mezz'ora, un'ora nel weekend per, che ne so, fare un lavoretto in casa. Noi vogliamo ispirare, e dare nuove idee, dare nuove possibilità di realizzazione delle proprie ambizioni anche. C'è un gusto internazionale che dicevo prima, che è presente, che è il momento di portarlo in Italia, è il momento di trovare un modo per coinvolgere il pubblico italiano con idee nuove, ispirazioni che vengono dall'estero. È sbocciata la primavera e io un menù per festeggiare il suo arrivo. Star del canale Giada De Laurentiis, chef e conduttrice TV molto nota negli Stati Uniti, nipote di Dino De Laurentiis e Silvana Mangano. L'ha intervistata Marta Cagnola. Sono molto felice, sai, è una cosa che lo stavo dicendo alla mia famiglia in America, mi hanno detto wow, è proprio una cosa grande per me, personalmente, perché sono nata qui e poi sono andata in America quando avevo 7 anni, allora è una cosa bella, molto bella essere qui. Tu negli Stati Uniti hai rappresentato anche un ponte tra la cultura culinaria e non solo, italiana e quella americana, quindi hai avuto un ruolo molto importante, hai spiegato agli americani che cos'è il modo di vivere italiano, non solo la cucina. Sì, sai, la cosa che penso agli americani proprio gli piace è la cultura e la cucina, e portarli insieme è la cosa che faccio io. E anche, sai, prima che io ho incominciato a cucinare, il cibo italiano era una cosa che prendevi sempre in un ristorante, non è che lo potevi fare a casa. Allora gli ho fatto vedere che si può fare la cucina italiana a casa, che può essere semplice e molto buono e anche facile. Non è cibo italiano italiano, ma italiano con a touch di americano e un touch di California, è anche un po' leggero. Essere e avere. Verso quest'ora, quando mi trovo dalle parti del Pantheon, vengo e resto ammirato da questo capolavoro di architettura. Non meno solido che bello, non meno romantico che imponente, voluto da Adriano, il più raffinato di tutti gli imperatori. La buona architettura merita sempre un applauso. Focus sui trend. A cena, tra le opere d'arte, sono più di una le scene del genere nel film di Peter Greenaway, Il ventre dell'architetto. Questa la trovate sulla nostra pagina Facebook. Dovendo introdurre e ispirare il focus sui trend di questa settimana dedicato alle nuove contaminazioni tra cibo e arte, abbiamo scelto il regista che più di tutti ha reso omaggio all'architettura, alla pittura e alle arti figurative. Nutrirsi d'arte è la tendenza che fa del cibo un ponte perfetto per comunicare e vivere l'arte. Cene di gala, ristoranti stellati nei musei o viceversa ristoranti galleria come nuovi spazi espositivi alla ricerca di nuove sensibilità, esperienze, scenari. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Paolo, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Da dove partiamo per delineare questa tendenza? Allora, possiamo partire da Milano, partiamo da casa nostra, perché negli ultimi anni si si è visto un fiorire incredibile di ristoranti che hanno messo al loro interno opere d'arte importantissime. È la conferma di questa tendenza per cui negli ultimi anni i musei si sono dotati di ottimi ristoranti, ma adesso è il contrario, invece di avere il cibo dentro l'arte, l'arte va vicina al cibo, quindi sono le opere d'arte che vogliono andare al ristorante in qualche modo e essere più vicine alle persone, proprio perché l'arte per noi ormai è un nutrimento quotidiano, non è più la cosa limitata al viaggio nel museo, al viaggio nella città d'arte, eccetera, ma siamo circondati di opere d'arte con immagini, stampe, addirittura le opere d'arte stampate sulle tazzine del caffè, no? Quindi, partendo da Milano, un caso sicuramente molto interessante è quello di Pisacco, ristorante di Via Solferino, che è dominato da un graffito di Gabriella Ciancimino, ma anche da tante altre opere d'arte che cambiano in continuazione. I soci del ristorante sono collezionisti di arte contemporanea, espongono a turno e per tempi limitati pezzi della loro collezione. Sempre rimanendo in Italia, un caso molto interessante di commistione tra cibo e arte è quello dell'Italia Nuovo Ristorante all'interno dell'Italy, del mastodontico Italy di Roma, dove anche qui ci sono delle opere d'arte che turnano, che cambiano. Ad esempio, l'anno scorso si poteva cenare in questo ristorante, pranzare dal ristorante accanto a dei meravigliosi ritratti di Modigliani. Adesso invece c'è una nicchia di Francesco Rubino a partire dal febbraio di quest'anno. Se vogliamo andare fuori dall'Italia, probabilmente quello che è il prototipo dei ristoranti galleria è lo Sketch di Londra, una vera e propria galleria d'arte, per cui anche l'atrio si sviluppa come una galleria d'arte, si arriva in questa sala gigantesca che adesso è tutta decorata da Martin Creed, uno degli artisti contemporanei più apprezzati, vincitore anche di recente del Turner Prize. Poi si mangia cibo reinterpretato, destrutturato, quindi anche il cibo in questo caso è piuttosto artistico, diciamo, estremamente creativo. I piatti sono tutti diversi tra di loro, le sedie sono tutte diverse tra di loro, non c'è un tavolo uguale all'altro, i bicchieri sono tutti recuperati, preziosissimi oppure super cheap. Si è immersi in questo contesto artistico che diventa persino troppo preponderante, se vogliamo, perché è tutta una festa di colori, una giostra di colori. Una delle cose più interessanti del ristorante è il bagno, è una sala enorme piena di gigantesche uova, sembra di essere finiti sul set di Cocoon. In realtà ognuna di queste uova, di queste ogive giganti è una toilette. Quindi anche quello lì è estremamente fotografato. Ieri mi dicevi, Paolo, svegliamo ai nostri ascoltatori, in una delle chiacchierate, insomma, in cui ci confrontiamo per preparare quella che sarà poi la puntata, mi dicevi è una sorta di ricerca sinestetica, quindi vista e gusto insieme. In queste realtà si fondono queste sensibilità e queste ricerche. Certo, un altro l'esempio perfetto di quello che stai dicendo è un altro ristorante di Londra, che è il Tram Shed, si chiama così perché è recuperato in un vecchio ricovero per i tram, in un vecchio magazzino dei tram, dominato al centro da una scultura di Damien Hirst che si chiama Bull and Cock, come dice il nome stesso, si tratta di una mucca e un gallo in formaldeide, opere abbastanza scioccanti come Damien Hirst ci ha abituato a fare. È praticamente quello che viene servito nei piatti, no? Perché fare una cucina molto semplice, soprattutto a base di carne, con bistecche tagliate, pollo al forno o allo spiedo, eccetera. Quindi tu vedi quello che stai mangiando in forme molto diverse, è anche abbastanza, come dire, gli inglesi sanno fare molto bene, creare molto bene questi contrasti al limite del punk, se vogliamo, però è sicuramente un'esperienza estremamente coinvolgente, sia dal punto di vista visivo, artistico, ma anche dal punto di vista culinario. Una cucina molto semplice, molto grezza, molto delle origini che si rispecchia dentro e fuori quello che stiamo vivendo. Si può giocare molto anche sulla parola gusto, quindi nuovo gusto estetico, nuovo gusto del cibo, ecco, quindi proprio un ponte, una contaminazione anche lessicale. Sicuramente, perché insomma il gusto della bocca, il gusto del vestire, il gusto del guardare sono tutti elementi oggi importantissimi anche nella definizione dell'identità delle persone e chiaramente anche nell'identità dei luoghi. Anche il web, come sempre, insomma, intercettore delle nuove tendenze, ha declinato questo trend. Mi viene in mente, per quanto riguarda l'Italia, Piazza delle Arti, una piattaforma web di cui abbiamo parlato tempo fa, proprio in Essere Avere, che mette in contatto locali, ristoranti con artisti, proprio per proporre nuovi spazi espositivi. Anche questo è un segnale del fenomeno. Sicuramente, quello del mecenatismo online, sia orizzontale sia verticale, come nel caso di Piazza delle Arti, è molto molto diffuso. Un caso che mi viene in mente, che vi arriva dagli Stati Uniti, è quello di Patreon, che è un sito di crowdfunding per artisti, artisti visivi, musicisti, creatori di contenuto, no? Content creators, come dicono gli americani. Quindi persone che vogliono vivere della loro arte, che poi sono finanziate, diciamo, costantemente dall'apporto delle persone. In alcuni casi si arriva addirittura ad avere dei contatti diretti con questi artisti: se io ti finanzio voglio vedere magari in anteprima l'opera che hai realizzato. In altri casi si è arrivato proprio anche alla realizzazione di vere e proprie mostre, magari organizzate in spazi privati come in spazi pubblici. Quindi il web ancora una volta arriva ad essere un trade union molto interessante tra esperienze reali, tra esperienze fisiche e esperienze invece legate al pensiero, alla mente, come accade insomma in questi ristoranti in cui il gusto a 360 gradi viene coinvolto. Italian Factor. È il momento del nostro viaggio alla ricerca dell'italianità perduta, il percorso che si propone di ispirare aziende e consumatori, ma anche istituzioni e associazioni, per comunicare e valorizzare le eccellenze del nostro Made in Italy. Francesco Morace, ben ritrovato. Ben ritrovati anche voi. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo dell'empatia. Molto spesso si immagina questo termine applicato solo alla relazione tra le persone o nelle comunità. In realtà esiste un'empatia, un empatos, diciamo una passione anche per gli oggetti e per il mondo che ci circonda. E allora nell'Italian Factor noi dobbiamo considerare con grande attenzione, ad esempio, tutti gli oggetti che vengono utilizzati per produrre. Entrare in una bottega di un artigiano significa osservare con attenzione tutti gli strumenti che lui utilizza e che cura per realizzare al meglio quello che è in testa. Quindi l'empatia è anche proprio un rapporto diretto con l'oggetto, con ciò che si usa e con il mondo circostante. Questo a livello aziendale che cosa significa? Questo significa che bisogna porre una grande attenzione non solo alle relazioni tra le persone, ma anche ai luoghi in cui si lavora, e quindi un ambiente che sia empatico aiuta ciascuno di noi a concentrarsi e a dare il meglio di sé. E tra l'altro su questo io cito sempre una regola, che è la regola di Isaac Stern, che era un grande violinista, e che diceva: più tu sei in empatia col violino che tu stai suonando, e più allenarti, esercitarti non è noioso, ma diventa qualcosa di assolutamente avventuroso. Quindi è un cambio culturale, oltre che organizzativo e di welfare aziendale. Eh sì, ed è proprio qui, riprenderei quanto dice Goffman, grande antropologo: l'impresa è come un mondo vitale, quindi noi dobbiamo osservare e realizzare questa dimensione con le altre persone, ma anche con gli ambienti in cui ci muoviamo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. A sabato prossimo, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.